الشرح الأبرتورا. بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. ألم نشرح لك صدرك؟ Non ti abbiamo forse aperto il petto alla fede? ووضعنا عنك وزرك. E non ti abbiamo sbarazzato del fardello الذي أنقض ظهرك che gravava sulle tue spalle ورفعنا لك ذكرك non abbiamo innalzato la tua fama فإن مع العسر يسرا in verità per ogni difficoltà c'è una facilità إن مع العسر يسرا Sì, per ogni difficoltà c'è una facilità. Appena ne hai il tempo, mettiti dunque ritto. E aspira al tuo Signore.